Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Non hai neanche preso i biglietti. Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. Non so se supereremo mai questa fase, cari ascoltatori. Questo è Dai Vai, questa è Radio 24. Grazie per essere ancora qui all'ascolto. E beh, insomma, diciamo che anche oggi abbiamo qualche problema con le voci, però facciamo finta. Beh, chi più chi meno. Non tutti. Sei guarito e adesso ne approfitti. Che bello. Non supereremo mai questa fase. No, mai. Siamo soltanto alla seconda puntata, anzi la terza puntata in realtà in questo momento, però possiamo già dirvi i risultati di oggi in questa giornata, che mi pare sia la 21esima di questo campionato. Esatto, giusto? La seconda di ritorno, la 21esima giornata. Quindi andiamo direttamente con i risultati, tanto perché così ci togliamo via questa parte burocratica. Chievo-Parma 1-1, hanno segnato Belfodil e Paloschi. Genoa-Catania, sta vincendo il Genoa 1-0, segnato subito all'inizio con Berghessio. Poi Milan-Bologna, pochi istanti fa, Pazzini ha portato in vantaggio il Milan, quindi 1-0. Il Torino vince a Pescara 2-0 con il gol di Santana e di Cerci. Poi il Sampdoria 1-0 con un gol di Bogdani. Poi Atalanta-Cagliari 1-0. Scusa, mi stai dicendo che sta perdendo la Sampdoria? Sì, è successo adesso mentre c'era la pubblicità. Esatto. Sono cose che succedono in La Sampdoria sta perdendo 1-0 a Siena, gol di Bogdani durante la pubblicità. Io ho detto che la pubblicità non deve andare in onda perché sennò segna il Siena. Ecco, certo. Dovevamo andare subito dopo la trasmissione di prima, subito in diretta senza pubblicità. Siena 1 Sampdoria 0, gol di Bogdani. E attenzione, c'è la neve. E quindi Atalanta-Cagliari iniziata mezz'ora dopo, malgrado questo il Cagliari in vantaggio 1-0 con l'autorete di Canini. Ok, adesso parliamo dei veri gol della giornata, di questa... Come no? È finito tutto. Siamo venuti fin qua per vedere segnare poco. No, sapevo, siamo venuti fin qui per venire a segnare Matri. A me risultava così. Intanto non urlare, che mi urli nelle orecchie, mi dai fastidio quando urli. No, questo qua non è una trasmissione urlata, particolare quando non c'è la voce, quindi non posso urlare neanche io, quindi questo diventa problematico per quanto mi riguarda, da questo elemento. Allora, vabbè, intanto tutti parlano del gol di Pogba e continuerete a sentirlo in tutte le salse. Nel frattempo Milan, mi ha detto Milan 1-0? Sì, Milan 1-0, gol di Pazzini, ha fatto un'azione, tutto un giro in aria, ha ricevuto il cross dalla destra, ha fatto se girare e poi l'ha messa dentro. Buonanotte in questo caso, in questo passaggio. Sta cosa succedendo con l'Atalanta? Atalanta niente. Siamo soltanto, sono solo al primo minuto e 54 secondi perché c'è la neve. Dov'è la neve a Bergamo? Hanno detto che iniziavano. Posso dirti una cosa? Luca Cancellara, ci hai smarronato veramente la vita. Stiamo parlando di neve. Ci hai smarronato la vita fuori onda dicendo che a guardate volte... che questa vittoria qua nello sci è una cosa determinante. Quella andiamo in onda e stai zitto. La vittoria, perché tu non ti ricordi chi è il vincitore? Innerhofer, ripeti con me. Mölge. Mölge era quello di domenica scorsa. Sono rimasto fermo a Mölge. La storica pista di Wengen, Svizzera. Ecco. Innerhofer è arrivato prima, ha sbaragliato la concorrenza dei due austriaci. Ma Wengen è quello dove c'è la Mausfalle? Proprio quello lì. Ah, quello lì, perfetto. Sì. Mausfalle è il salto del topo. Sì, no, beh, certo. Adesso volete far vedere che avete letto la Gazzetta. Dai, esatto, su, smettete di fare queste stupidate. Voglio dire, ecco, diciamo... Però l'abbiamo letta bene. Ecco. Letta bene, Mausfalle subito, letta bene. Sì, va bene. Insomma, volevi dirci qualche cosa di questo? Che 2 minuti e 29 di discesa mi sembra una cosa importante. Ha sbaragliato la concorrenza degli austriaci Kröll e Reichelt. Ecco, ti sei giocato la notizia. Kröll, ma non era quello che giocava come libero del Napoli? Anche, ha cambiato sport. Va bene, guardate, io penserei delle ore intere ad ascoltarvi in noi questa no fase. A sentirti la voce che c'hai oggi, noi no. Adesso ti dà fastidio la mia voce, ti faccio risentire la registrazione, anzi il podcast dell'altro. Ricordiamo 800 24 00 24 800 24 00 24. D'altra parte, io personalmente questa settimana mi dedicherei moltissimo al calcio. Beh, certo, sì, cioè, Pogba mi ha distratto oggettivamente, diciamo, noi dovremmo dedicarci soltanto al ciclismo. Sì, no? Diciamo ciclismo. un piccolo passo per l'umanità, un grande passo per il ciclismo, quello di Armstrong. Sì, insomma, ciclismo, questo se vogliamo fare, cioè una roba in cui si filavano tutto il possibile e l'impossibile e riuscivano anche a pedalare veloce. No, adesso non essere così, cioè adesso buttarla no, sì, un po' così, un po' a spanne stai andando da questo punto di vista. E nel frattempo non c'è nessun gol che ci sta interrompendo, no. Quindi questo ci riempie di gioia. Sì. Però la cosa che mi lascia un po' perplesso è che il Milan in questo momento è pressato all'interno della sua metà campo, sì, e non riesce a uscire. È un po' nella logica delle cose, visto che il Bologna è sotto 1-0, siamo al 34esimo del secondo tempo. Ricordiamo gol di Pazzini per il Milan. In questo momento in attacco il Bologna è sostanzialmente 11 giocatori del Milan dietro la linea della palla. Volevo dirla sta frase, una vita che volevo dire, 11 giocatori dietro la linea della palla. Adesso l'ho detta oggi, basta, oggi. Adesso l'ho detta, è sufficiente. Vabbè, insomma, questo ci riempie di gioia. Ricordiamo allora 800 24 24 00 24 800 24. Quindi 800 24 00 24. Ok, e poi ricordiamo anche la nostra pagina Face, esatto, andate su Dai e Vai con la e commerciale, Dai e commerciale Vai su Facebook, c'è la pagina Face dove ci sono immagini, dove ci sono notizie, informazioni, dove potete anche commentare durante le partite. Lo sanno che cos'è Face, non dire delle cose inutili, cioè, magari non lo sanno, si sa benissimo che cos'è Face, ripetiamoci inutilmente, ci siamo bloccati direttamente, adesso ormai fanno vedere soltanto Milan Bologna e basta, non ho capito, il resto è già tutto deciso, Torino sta vincendo a Pescara 2-0, è già deciso, la Sampdoria non riuscirà mai a recuperare sul Siena 1-0, il Cagliari, vabbè, c'è tutto il secondo tempo, ecco, vedi, Genoa Catania, siamo al 37esimo, scoccato in questo momento, sempre col Catania in vantaggio, gol di Berghessio subito all'inizio con assist di Gomez, ecco, ricordiamo l'assist di Gomez, stava segnando il secondo gol il Catania. Scusa, però io non vorrei, cioè è passato così inosservato il mio titolo della settimana. Quello del doping? Quello del doping. Cioè un piccolo passo Armstrong, per l'umanità. Un piccolo passo per l'umanità, un grande passo per il ciclismo. Un grande passo non viene bene. Un inutile passo per il ciclismo. È stato utile. C'è dell'utile in tutto questo? Sì, c'è dell'utile. Non lo so, secondo me è inutile passo per il ciclismo. No, utile. Io sono per utile. Va bene come titolo. Utile passo. Un grande passo per l'umanità. Un piccolo passo per l'umanità. Piccolo passo per l'umanità, però non viene bene nella carta stampata, scritto così anche su Face. Dice troppo lungo? Non viene bene, no, così, non viene bene. No, perché vabbè, dopo te lo spiego. Intanto c'è un corner. C'è la punizione. Punizione, esatto, dal lato corto dell'area, la mette in mezzo il Bologna, tira sul secondo palo, ma la palla è fuori. Diamanti? La palla è fuori. E diamanti? No, non era diamanti. La palla è fuori. Sta facendo vedere sostanzialmente soltanto Genoa Catania e Milan Bologna. Questo nella televisione. Dai diamanti non nasce niente, da diamanti non nasce neanche il gol. Esatto. Questo è il concetto, no? Mancano pochi minuti alla fine. Ecco, Chievo Parma sempre 1-1, 37esimo, ha segnato prima il esatto, il Parma con Belfodile, poi ha pareggiato Paloschino che è già uscito perché è entrato Pellissier. Il Chievo ha deciso di giocare senza Pellissier titolare oggi, Basta. È una cosa importante. Tu dici? Sì. Guarda, sì. Sono affranto da questa tua notizia, da questo punto di vista. Intanto vi ricordiamo che intanto stanno arrivando 41 secondi, cioè un minuto fa anche Antonello Greco ci ha scritto, ci ha mandato già un... Si è iscritto nella pagina fans, anzi nella pagina fans questa. Sì, una pagina fans. Ecco. Sì. La cosa che non riesco a capire è come si fa, cioè non riesco a leggere proprio il nome, il titolo, che cosa ci ha scritto come messaggio. Questo è un po' imbarazzante per certi versi, mentre tu ti stai guardando il giornale, stai cercando di capire chi è che sta per segnare, cioè Weiss. Esatto, Weiss. È solo lui che può fare queste cose. Weiss del Pescara. Pescara. Doppietta, eccolo qua, e ha segnato il Milan. Allora, stiamo parlando del Pescara, pausa, e stiamo andando sul Milan. Il protagonista segna una doppietta importantissima per il Milan. E forse questa doppietta potrebbe anche condizionare, chissà, le scelte di mercato della Milan, che cerca anche un centro. Adesso non andiamo troppo in là, cioè diciamo soltanto il gol, chi l'ha fatto? Pazzini ha fatto un gol fotocopia del primo, cross dalla destra, lui stoppa in area, spalle alla porta, si gira e fa una mezza girata al volo e infila la palla alle spalle di Agliardi. Quindi 2-0 del Milan sul Bologna, partita finita, così almeno la finiamo di vedere Milan-Bologna. Si sposta, fanno vedere che cosa? Si era Sampdoria, la partita importante della giornata, non ho capito. Vabbè, tu pensi che questo possa essere comunque un traino per questa trasmissione, cioè si è Siena Sampdoria, cioè, hai capito? Noi facciamo la farina, il pane con la farina che ci viene dato. Queste sono le partite. Intanto De Silvestri è sporco di fango, come pochi giocatori sanno essere sporchi di fango nella storia del calcio. Calcio d'angolo per il Siena, dalla destra c'è Della Rocca. Non è colpa nostra se la trasmissione è quella che è come attacco. No, diciamo, allora, la Juventus ha giocato ieri sera, la Roma gioca stasera, la Lazio ha giocato ieri sera, l'Inter stasera, e quindi questa è la situazione. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Ciao, dici. Volevo dirvi che la Maus Falle è a Kitzbühel e non a Wengen. Ah, ecco, oh, perfetto. Oh, Luca, infatti, che notizie metti in giro? No, ma io chiedevo a te, sei tu l'esperto. Non lo gete molto bene la Gazza. No, neanche noi. No, loro, io non riesco a leggere la Gazza. Intanto fermati, perché ci abbiamo anche un gol in questo momento. Ha messo dentro il pallone nella sua porta, anticipando Fred. Chi? Era nell'aria, però il raddoppio del Catania da tanti minuti la squadra di Ecco, allora, torniamo a noi. Come vedi, noi aspettavamo il gol, no? Per avere poi anche un altro suono diverso. Appena arriva la telefonata, ecco che arriva subito un'altra, il gol. Vabbè, insomma, tu ci stai puntualizzando. Che cosa stai puntualizzando su? Sto puntualizzando che la Maus Falle è a Kitzbühel ed è in programma il prossimo weekend. Mentre invece a Wengen, quel passaggio acrobatico dove ieri Zindal è caduto, non si chiama Maus Falle, ma si chiama in un altro modo che adesso non mi ricordo. Chi ci dice Luca? Si dice Hundschoff. Adesso il mio tedesco o svizzero, che non è perfettissimo, però... Scusa, cosa è successo? Terzo gol? Sì. No, 2-1. Autogol di Mexès, c'è Pasquato che l'ha colpito. Stiamo parlando di Milan-Bologna. Esatto. Ecco, tanto per dare la partita anche in questo caso. Cioè, basta dire Hundschoff e segna il Bologna. Vabbè. Esatto. La cosa che mi dà un po' fastidio è che Roberto non riesce a dire tutte le cose che voleva dire. Roberto, tu ti occupi di sci? Non c'è nessun problema, io mi occupo anche di sci. Da Genova? Di attrezzature sportive, da Genova, sì. Ah, cioè vendi sci, questo è il tuo livello di occuparsi? Vendo sci e abbigliamento sportivo. Sì. Ah, sì, a Genova? A Genova, a Genova, in Piemonte. Ah, un po' il giro, cioè tutto un giro. Sono un agente di commercio. Ah, ecco, quindi comunque no, perché sennò diventava un po' così, no, lo sci... A Genova. Senti, no. Qual è lo sci che va quest'anno? Che domanda è? No, il colore, nel senso che c'è... domanda adesso? No, il colore, ma ci sembra il caso di fare domande. Ma questa è la radio. Direi che i colori sono ancora. Vengono ancora scelti in predominanza dalle donne, mentre invece ecco, Roberto, la domanda era scema, la risposta non è che però cioè, era obbligatoria, cioè potevi anche evitarla, cioè, lui dice la domanda così e tu sei cascato e hai dato davvero una risposta seria. I colori le scelgono le donne, hai capito? Certo. È vero. Sì, se li lasci scegliere a noi mettiamo uno scarpone viola con lo sci giallo, che va bene se vai a sciare a Los Angeles con i Lakers, però per il resto non benissimo. Vabbè, guarda, per fortuna, caro Roberto, è arrivato il traffico. Grazie, ci risentiremo prima o poi, Pronto? Ciao. È già andato. Ciao. Grazie. Dai e vai. Non è solo calcio. Dai, di il gol, vai. Dai, di il gol. Chi è che ha segnato? Stendardo su un calcio d'angolo è entrato quasi in tuffo sul primo palo. La palla è finita sul secondo palo. Gol di Stendardo, 1-1 dell'Atalanta sul Cagliari. Beh, comunque le partite stanno finendo, sì, diciamolo. Chi più chi meno. Sì, beh, comunque 3 minuti e 45 sì. Per quanto riguarda il Siena e la Sampdoria. Quindi non c'è trippa per Gatti, ovviamente, no, per la Sampdoria. No? Può ancora fare il 2-0. Ed è fatta Siena, Ganassa, come al solito. Abbiamo battuto la Juve. Può fare 2-0 ancora il Siena, cioè dagli tempo. Manca ancora un minuto e mezzo più tutto il recupero. Questo è il flagello della vittoria sulla Juve. No, tutti quelli che hanno vinto, poi dopo che hanno fatto subito dei risultati assolutamente inutili. Siamo mica l'Inter noi. Scherzo. Vabbè. Tiro da fuori della Sampdoria. 43-40 era Obiang. 1-0 per il Siena. Dai vai, 800 24 00 24. Non siamo i soli, ovviamente, qui stravaccati. Noi non siamo stravaccati, ovviamente siamo qui ligi, però c'è gente che magari è stravaccata sul divano, cioè tu sport, a casa, sì. Com'è che ti guardi la televisione, cioè in questo caso le partite? Poltrona poltrona poi ogni tanto gambe sul bracciolo della poltrona, sì. Un po' svaccatissimo, cioè, proprio così. Però non sempre. Sì, certo. La cosa che dà fastidio è la giacca e la cravatta, voglio dire. Che continua a tenere. Bisogna avere un po' di stile. Però noi abbiamo, ovviamente, nella nostra rubrica che tanto ha appassionato i nostri ascoltatori, e cioè la mia mamma, per esempio, ha appassionato moltissimo questa cosa qua. Restando a casa? Sì, restando a casa. Cioè quelli che in realtà sono a casa e si guardano la partita. Non voi ascoltatori, stiamo parlando dei quelli che dovrebbero essere in campo a giocare e che invece sono rimasti a casa a bighellonare, a ciondolare e anche a soffrire probabilmente, no? E stiamo parlando a questo punto di Guido Marilungo, che abbiamo al telefono con noi. Guido, buongiorno. Buongiorno a voi. Quanto stai soffrendo? Parecchio, anche perché è una partita bella tirata, sto vedendo. Sì, quindi... Beh, però qualche minuto fa la felicità del gol di Stendardo e un marcatore dell'Atalanta che segna tantissimi gol, quindi vabbè. No, sicuramente no, si dice per il pareggio, ma adesso dobbiamo vincerla perché ci servono i punti per salvarci e dobbiamo vincere per forza questa partita. Ecco, ricordiamo Guido Marilungo, che è fermo per un infortunio che ha avuto il 27 di novembre durante una partita inutile Coppa Italia col Cesena, giusto? No, però diciamo che per i nostri obiettivi contava poco, dai. Sì. Ho capito, però preferivi farti male con la Juve che col Cesena in Coppa Italia. No, preferivo cosa non ti farti cambia? Male proprio, direi. Infatti, ma poi cosa cambia? Se uno si fa male, no? Meglio, cioè voglio dire, non è quello il problema, no? Da questo punto. Allora, dacci un attimo la tua, cioè dai un'immagine, scusa, se siamo una radio e ci tocca dire queste cose, dai un'immagine, tu sei... sdraiato con il pile, con la copertina, ti stai guardando, no, dacci un'immagine, come sei collocato? Guarda, sei preso in pieno, sono sdraiato sul divano con la copertina, guardo la partita e col cane vicino a me. È il cane, tipo che cane, come si chiama lui? Sì, è irlandese, si chiama Bex. Bex, come la birra, quindi come la birra, abbiamo già capito che tu la sera cosa la sera? Che la sera è? No, scusa. La sera è che cosa? Ad esempio stasera al posticipo ormai Inter con la beve la... per dimenticare, non ho capito, scusa. Con la birretta lì di fianco, la copertina, la birretta stasera Vabbè, intanto non ci sono grandi novità nelle partite, quindi noi vi segnaleremo ovviamente quando ci saranno queste novità. Non so, il secondo gol del Siena sì, no? Sì, ricordiamo, vecchio cuore blu cerchiato, Marilungo, è cresciuto nella Sampdoria. Ricordiamo, Marilungo, tu, se non sbaglio, hai vinto Scudetto e Coppa Italia a Primavera. Sì. È stato una, diciamo, quella è stato quello che nell'anno del triplete la Sampdoria ha fatto il doppietto, come l'avete chiamato? No, non l'abbiamo chiamato e basta, perché tanto i settori giovanili purtroppo non vengono tanto considerati, quindi sono una soddisfazione personale nota della squadra e magari della società e basta. È durata poco, diciamo. Senti, Guido, tu adesso ti do del tu perché tanto ormai siamo diventati amici, non voglio chiedere questa cosa. Guido, allora, tu ieri sera ovviamente non c'avevi niente da fare, eri a casa, stavi anche lì con la solita copertina, queste cose qua, e ti sei guardata la Juve, no? Guarda come sei intristito. Sei già intristito. Ma stai zitto, 30 secondi. Cioè, adesso vedi che si ricorda questo e si illumineranno gli occhi, che sai che per radio funziona sempre, no? Allora, tu a un certo punto eri lì bello piazzato, a un certo punto e hai visto Pogba che si gira, si rivolta e tira quella cannonata ai 116 orari, no? E la mette là nel quasi 7. Ecco, che cosa hai detto? Non ci sono parolacce, vabbè, fa lo stesso, dai, di che cosa anche delle parolacce, ma adesso non tante, non quante ne vorresti. Cioè ti sei rimasto un po' così vabbè, un gol del genere rimane un po' così. Sì, questo è il primo. Il secondo cosa hai detto poi? Il secondo, allora ho detto, allora c'è il vizio. Ecco, ma allora, insomma, cosa te sembra? Cioè, ma tu l'hai già, non l'hai mai, l'hai incontrato almeno per strada lui? No? Cioè, non l'hai incontrato in campo? No, mai. Mai. Mm-hmm. Però mai. Tutti dicono che ha questo fisico e no, cioè è gigantesco, è fortissimo, anche come fisico. Cosa dicono i tuoi compagni? Guarda, sinceramente non è che... Ne parlate di Pogba? Parliamo di Pogba, so, però a 19 visto, anni a giocare è forte, giovane, e poi per giocare nella Juve adesso devi essere proprio forte. Quindi io parlerei delle ore di Pogba con Marilungo, perché sì, ci manca. Che succede? Attenzione, perché c'è già un altro della Sampdoria che verrà cacciato, immagino, no? No, c'è una mezza rissa in Siena Sampdoria perché l'arbitro pare che abbia espulso Iachini e nel frattempo Gastaldello, che si vede che non gli sta simpatico a Iachini, ha iniziato a urlargli di tutto. Poi a Iachini, ma che, dai, sì, che a quanto pare ritardava l'uscita dal campo, perché mancano, siamo nel recupero anche in Siena Sampdoria, e stava ritardando l'uscita dal campo perdendo tempo, quindi Gastaldello, vabbè, gli ha detto ti è espulso, fuori, andale, e la cosa non è stata, ha detto andale, sì, l'ha detto dal labiale, andale, andale. No, questo mi ha entusiasmato da questo punto di vista. Vabbè, insomma, 800 24 00 24, se qualcuno ha intenzione di fare delle domande, comunque a Marilungo, lo fatele pure, cari ascoltatori, noi siamo disponibili anche a passare le vostre domande, anche su come si riesce in qualche modo a superare il tuo incidente, che ricordiamo è, che cosa ti è successo di preciso? Rotto il legamento, crociato. Tra l'altro, cos'è quel rumore? Mi immaginavo il dolore, con passione. Tra l'altro, ricordiamo, un infortunio allo stesso ginocchio l'avevi già avuto a marzo, tu, giusto? Sì. Ero appena rientrato da un mesetto più o meno. Ecco. E mi sono ridotto di nuovo. Senti, visto che c'eri già passato su quella strada lì, l'hai capito subito? Cioè, quando è successo lì a Cesena, sull'erbetta di Cesena, ti sei reso. Intanto è rissa, mani in faccia. Stiamo parlando di nuovo di Siena Sampdoria. Veramente rissa fra Gastaldello e tutti in campo, panchina in campo. C'è uno steward addirittura che solleva fisicamente Gastaldello. Sì. Stai guardando, Guido? No, perché sono messo ora vedo, guarda. Te lo diamo, ecco, noi la diretta, guarda. Fermare i compagni. Iachini però è rientrato in campo e sta discutendo con Gastaldello, quindi provano a riconciliare i due. Ma tutto sotto gli occhi. Ah, beh, immagino Iachini adesso. Che... Sì, ma la tensione agonistica può fare queste cose, Guido. No, tu l'hai mai fatto cose così? Attenzione, perché c'è ancora Romero vuole ancora andare. Romero vuole farsi giustizia da solo. Ma dai, ma non è possibile. Sì. Ah. Sì. Viene tenuto sostanzialmente da quattro giocatori e non riescono a tenerlo. Tanto è arrivato lo steward di prima, quello che ha sollevato Gastaldello, che adesso porta via Romero. Sì, vabbè. Ecco. Esatto. Sono momenti, sono momenti di grande calcio, tra l'altro. Partita finita. Ecco, tra l'altro, Iachini sta abbracciando tutti i giocatori della Sampdoria. Beh, sì. E abbiamo risolto il problema. Fino, ecco, fino a 4 mesi fa, 5 mesi fa, era lì che portava i ragazzi in Serie A. E adesso... Scusa, Guido Marilungo. Allora, io da anni sto tentando di spiegare ai frequentatori del bar sotto casa mia, che loro dicono, ma sai com'è, no? Si è fatto prendere un po' dal gioco qua e là. No, cioè non è possibile. Perché bisogna farsi prendere dal gioco? Cioè è possibile incazzarsi così tanto da aprire una rissa alla fine, tra l'altro rischiando non poco, espulsioni e robe di questo genere qua e cose varie? Diciamo che quando sei in trance agonistica a volte si può perdere la testa, però devi essere subito bravi compagni e avversari, perché a stoppare... tutto subito, perché se riesci un attimo subito a stoppare, a far ragionare, ti stoppo subito. Io intanto, perché proprio in questo momento invece ci dicono che sta arrivando il GR, quindi ci sentiremo però più tardi, proprio subito dopo, subito. Dopo il GR, grazie, a risentirci, grazie. Dai e vai, non è solo calcio, è solo un gioco, ma... Non mi dire così, per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? I need a home, I need a home to feel safe and secure. I need a family to feel at home. My heart is finally at peace. I need a man to touch, love, be alive, and see the future. Dai e vai, 824 0024 e beh, io passerei delle ore a ascoltare questa voce di questa signorina, ma invece passerei qualche minuto ancora però anche ad ascoltare la voce di Guido Marilungo, che è strazzato lì sul suo divano con la sua copertina in pile, e vai un pile colorato, io per esempio ho un pile zebrato, tanto per darti un'idea, no, quando guardo le partite. Tu? Mio grigio normale. Grigio normale, triste proprio, cioè proprio una roba... tristissimo. Tristissimo da questo punto di vista. Senti, Guido, adesso hai girato soltanto su una partita, stai guardando sì. quella, Sì, sì. Ah, ok. Ah. Com'è che sta andando? Com'è che sta andando Atalanta Cagliari? Siamo rimasti adesso in 10. Come in 10? Sì. E chi è che è stato? Munizione, Giorgi. Ah, oh, ma Giorgi è così, è un carattere un po' è focoso, lui non riesce a trattenersi, vero? Si lascia un po' andare. Vabbè, anche in allenamento è uno che non tira mai indietro la gamba, vero? È così, Giorgi? Non lo so, perché sono arrivato, è arrivato a gennaio, quindi non mi sono mai allenato. Proprio neanche una pizza, insomma. Ecco. Sì, una pizza sì, una pizza sì. Una pizza sì, ah, vabbè, sì. Una pizza non si nega a nessuno, diciamolo. Senti, chi è quello che ti... Anche perché è marchigiano come me, quindi appena è venuto siamo andati a cena insieme. Grande. Chi è quello che ti sta più simpatico in squadra? Oh, sono parecchi simpatici. Sì, vabbè, adesso questo è quello che dice la Domenica Sportiva, vero. Dai. No, vero. Simpatici, il problema è che dobbiamo giocare, e se no simpatici siamo in tanti. Fammi due nomi, dai, quelli che ti stanno più Cigarini. E Bonaventura. Bonaventura. Mentre più antipatico? Ma che te frega? No, perché voglio sapere. No, ora vuoi troppo però, Non si dice. Vabbè, dai, c'è qualcuno che ti sta meno simpatico? No. Ma almeno dimmi se c'è. Dimmi se c'è. Luca, vuoi andare avanti per molto? Non so, cioè, qualcuno che non ti sta simpatico. Io ti ho lasciato un attimo di spazio, però voglio dire, adesso non devi mettere in difficoltà, dai, Guido, scusa, anche tu, non farti coinvolgere. Chi era allora quello antipatico, scusa? No, vabbè, dai, lasciamo stare, però voi uscite, no, la sera, cioè, vi incontrate, no? Cioè, normalmente, andate oltre all'allenamento oppure fate una roba tutto molto distaccata? Non vi incontrate? No, ogni tanto si fanno le cene di squadra. Mi sboccia, insomma, quelle robe lì. E ti invitano ancora, perché si ricordano di te, insomma. Ogni tanto glielo devo ricordare io, anche perché è un anno che non gioco, dicono, magari non gioca più con noi. Invece... Ecco. E allora per sfatare tutta questa specie di pensa che fortuna, non gioca ma però viene pagato lo stesso. Allora, di com'è la tua giornata. Faccio la mattina, mi sveglio alle 8, alle 9 e mezza inizio riabilitazione fino a mezzogiorno e mezzo, torno a casa, mangio, alle 3 e mezza inizio di nuovo riabilitazione fino alle 6 e mezza. Quindi è vera questa cosa che chi è infortunato lavora di più di chi sta bene? Vabbè, non può segnare i gol, però per il resto certo. Si sbatte un casino, insomma, Senti, prossima partita è settimana prossima col Milan, sto Milan qua Pazzini pim pum pam, va bene che non è il Bologna. No, la prossima se riesco vado a vedere lo stadio. Ne giocate due in casa, avete giocato con il Cagliari e giocate anche la prossima con il Milan. Guido, perdonami, a parte il calcio, tu sei un appassionato di qualche altro sport, vero? No, basket, ne seguo quasi tutti gli sport, mi piace il basket, e moto, diciamo che sono appassionato di sport in generale. Oh, questo volevamo sentire, perché qui Sergio e Luca sono alleati contro di me verso tutti gli altri sport. Avete sentito Guido? No, abbiamo sentito, certo. No, sta parlando di altri sport? Sì. Allora è il momento che non stavo ascoltando. Guido, non stavo ascoltando. Non farti coinvolgere, perché c'è Luca Cancellara che tenta disperatamente di parlare di altri sport. No, ad esempio, scusa Luca, cosa ha detto Guido? Che fa? Che è appassionato, segue il calcio. Il tennis, il motociclismo negli ultimi Luca ultimi in televisione guardo anch'io il Taekwondo, capito? No, ma siete una volta ogni tanto, non è che però passo proprio, capito, tutta la vita a guardare il Taekwondo, no? Il curling, per Guido esempio. Tu sai che cos'è il calcio gaelico? No, adesso basta. No, lascia stare. Conosci il calcio gaelico? No. Non importa. Vabbè, non importa, volevamo però sapere invece un tuo pronostico per stasera Roma Inter. Un bel pareggio, dai, accontentiamo tutti. Questa è una speranza, invece il risultato vero sarà? Non lo so, spero tanti gol, almeno mi diverto. Vabbè, ma con Zeman sempre tanti gol, dai. Cioè, si sa, non gioca ancora, gioca senza difesa, tutti in avanti, quindi... Però non è mai detto... Ah. Senti, torna. Ah, ma... è finita lì la frase. Io pensavo ci fosse qualcosa di più interessante. No, non è mai detto, punto. E ci avresti detto delle cose interessanti. Invece no, non è mai detto, punto. Quindi sei fermato lì, ho capito. Vabbè. Diamo una tempistica sul tuo rientro. No, per la stagione prossima. Ah, la stagione prossima. Ah, proprio vacanza proprio. Vacanza, dai. No, devo dire. Nel senso che poi a un certo punto si sarà riabilitato dopo un anno che fa riabilitazione, no? Dire, guarda caso, finisce la riabilitazione quando? A giugno, luglio. In teoria sono pronto per giocare verso la fine di maggio, ma il campionato finisce a metà maggio, quindi l'anno prossimo. Perfetto, perfetto, finisce a maggio, quindi vacanza. Vai a fare il giro di vacanzina. No? Così puoi giocare a beach volley, giusto? Vuoi provare magari anche qualche lascia altro sta, sport? Lascia stare, Luca. Ma dai, Luca, per favore. Dai. Grazie, grazie intanto. Grazie, grazie per, a voi. Grazie per la tua disponibilità. Tanto non avevi niente da fare, oh. Giornata buca. Guido, magari stasera una telefonatina te la facciamo durante Roma Inter, eh? Non ti disturbiamo, tanto sei lì con la copertina, quindi. Va benissimo. Ok, grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Yeah. Vogliamo sentirlo, Galliani? Allegri, scusa. Allegri, sì, sì. Vedi che sorride. Presumevo che fosse tifosi del Milan. Ah, ne avrete ancora altri, pare, no? Cioè, sì, al momento no, vedremo. Sta parlando di Felipe Massa, che hanno inquadrato prima, che Felipe Massa pilota Ferrari, che questa sera, cioè che oggi pomeriggio, è andato a vedere Milan-Bologna e quindi ha detto presumevo che fosse tifoso del Milan. Naturalmente, Allegri? No, c'è la società che pensa al mercato, altrimenti vengono attribuite delle cose che non sono assolutamente vere. Io con la società sono in piena sintonia, sul mercato, società che non, però il mercato lo fa la società. Beh, anche perché se non è in sintonia adesso che le sta prendendo di tutto, va benissimo, sono in passato. È stato in sintonia quando... Ilaria ha raffreddore come te. No, mi sembra cosa avete fatto sta settimana? Ottimo, però per il momento ancora non è arrivato nessuno, quindi giustamente... Cosa vuol dire, scusa? Non ha un grandissimo raffreddore. Io direi con Marco Losotti di partire dalla partita che ha avuto 2-3 volti, no Marco? Direi che al di là di questi sono comunque volti belli, o meglio, l'ultimo no, perché l'ultimo è il solito volto brutto di una squadra che non riesce a far salire. Guarda, io vorrei ascoltare Allegri proprio per tutta la serata. Ma adesso lo registriamo, poi te lo metto in quella macchinetta che metti nelle orecchie. Però alle 17:15 arriva il traffico e noi diamo la linea al traffico proprio in questo momento. Dai e vai. Strade in diretta. Disagi in città a Milano per un incidente, come ci conferma anche un gentile ascoltatore. Chiusure tra Piazzale Corvetto e il raccordo per la tangenziale est in direzione dell'Autosole. E ci spostiamo proprio sulla 1, il traffico è rallentato per un cantiere tra Pian del Voglio e Rio Veggio in direzione di Bologna. Infine prestate attenzione sul grande raccordo anulare di Roma, c'è un incidente all'altezza dello svincolo Bufalotta in carreggiata esterna. Ricordiamo il nostro numero verde per le vostre segnalazioni, 800 08 36 22. È tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. Perché si è occupato di calcio? Per sostenere il club calcistico della mia città, la squadra che io ho sempre tifato da tutta una vita. Ancora lì Allegri, sì. Non se ne vuole andare. No. Gli piacciono le domande. Scusa, E intanto, cari ascoltatori, 824 0024, andiamo direttamente con alcuni passaggi importanti, perché diciamolo, domenica ancora una volta ha sfatato la domenica precedente, cioè ha messo in crisi tutte le certezze della domenica precedente. Domenica precedente, vi ricordate, domenica scorsa, ormai campionato tutto riaperto, esatto. Siamo tutti pronti, sì. Che cosa, pronti a di nuovo a rivivere fino a maggio questo campionato? No, in realtà non è così. Lazio e Napoli ce la fanno, recuperano solo la Juventus. Juventus in crisi, ha perso in casa con la Sampdoria, ha pareggiato a Parma, non ce la solo fa. A tre punti, solo a tre punti è arrivata, no? Ecco, quindi allora, ecco, diciamo, Napoli e Lazio sono arrivati a 5 punti, esatto. Invece adesso di nuovo tutto di nuovo chiuso. abbiamo di nuovo tutto chiuso? Di per sé questo non lo sapremo mai, è inutile che ci fate la domanda, secondo voi è aperto? No, non lo sapremo, non lo sapremo e quindi non lo diremo. Però la cosa che secondo me è interessante è capire cosa manca alla vostra squadra, cioè alla Sampdoria manca la squadra, però no, in assoluto, e quindi questo ci risolve un po' la cosa, no. Anche se mi è simpatica la Sampdoria, e soprattutto alla maglia più bella del mondo, ricordiamo. Sì, ecco. Vabbè. Ti sei intristito? Non so, sì, mi è calata la depressione su questo punto. Vabbè. 824 0024. Nel frattempo, Allegri c'ha un sacco di cose da dire. Sì. Magari deve imparare ancora un po' a mettersi bene, a andare a rubare qualche palla in più, anche se ne ruba di intuizione. Però credo che in quel ruolo lì possa diventare un giocatore importante, più di quello che è in questo momento, perché poi è bravo di testa, lavora bene con le gambe in fase difensiva, non si fa saltare, è molto bravo a dare i tempi di gioco e credo che in quell'aspetto lì possa migliorare ancora e migliorerà ancora. Massimo. Allegri, senta, io credo che per il futuro del Milan partecipare alla Champions dell'anno prossimo sia importantissimo sotto l'aspetto degli investimenti che si dovranno fare. Avendo visto Lazio e Juve ieri e Napoli oggi, crede che questa sia una rimonta possibile, cioè il terzo posto alla fine dell'anno? Risposta no. Non è solamente per il Milan rimanere fuori dalla Champions. Credo che ci sono 6 squadre, 7 squadre. La domanda era, siccome la Champions dà un sacco di soldi, è problematico al Milan rimanere fuori dalla Champions? Sì, è problematico. Noi faremo il massimo o l'impossibile per cercare di... Sì, cioè fate il minimo, sarebbe imbarazzante. Meno, preferiamo rimanere fuori dalla Champions, poteva dire così, invece non l'ha detto. Quando fai queste... diciamo rivoluzione che cambia tutta la squadra, è normale che ci voglia un po' di tempo, io credo che ci sono tante questo squadre, questo l'abbiamo già sentito 2 mesi fa ma questa anche settimana scorsa è una domanda che andava bene, secondo me va bene anche settimana prossima dopo Atalanta Milan, speriamo di no. Vabbè. Cercheremo di centrarlo l'anno prossimo, però per noi l'obiettivo importante è cercare di fare un bel girone di ritorno, che la squadra cresca, che acquisti. Va bene, guarda, ha stremato lo studio là, figurati su questo studio qua, figurati. Già lì hanno inquadrato Ilaria D'Amico, che era veramente un po' così, no? Vabbè, c'è raffreddore, c'è l'influenza, fa sentire? Cioè, nel senso, rispetto all'ingresso in Champions, prima era meno 11, adesso siete a meno 9. Un po' di raffreddore. C'è il nasino chiuso, dai. Non come il mio. Parliamo di cose serie invece, diamo i risultati di oggi. Iniziamo da Chievo-Parma, 1-1, ha segnato Belfodile, poi ha pareggiato per il Chievo-Paloschi. Genoa-Catania 0-2, Bergessio e raddoppio di Barrientos. Milan-Bologna 2-1, doppietta di Pazzini, è passato in vantaggio il Milan 2-0 e poi nel finale un'autorete di Mexes ha portato il gol del Bologna. Pescara che perde in casa 2-0 con il Toro, con i gol di Santana e Cerci. Beh, siete veramente cattivi, proprio a me lo fate dire. Vabbè, Siena-Sampdoria 1-0, il gol di Bogdani con un assist di Sesto, un cross dalla destra, Bogdani è svettato in mezzo all'area, cioè si è inerpicato e ha messo in gol. Invece ancora in gioco, visto che è iniziata alle 15:30 per motivi di neve, Atalanta-Cagliari 1-1, Stendardo ha risposto all'autogol di Canini. Ecco, vabbè. Scusa, chi è il sosia del mai riuscito Luca Gattuso presente nella pagina dedicata a Dai Vai di Radio 24? Ci dicono, tra l'altro, no, sulla pagina falsa di... Non so di che cosa stai parlando. Hai scattato una foto. Non fare il furbo. Non ci sono foto mie disponibili in rete, quindi non è possibile. Ecco, vabbè, insomma, questo è quello che succede, tra virgolette. Ma avete saputo della vittoria di Seppi negli Australian Open? Seppi? Andreas Seppi. Ha battuto il croato Cilice in 5-7. Ah. Cioè una partita da 3 ore e 38 minuti. Di che sport stiamo parlando? Scusa, stiamo parlando di? Tennis. Tennis, ok. No, mi dico soltanto il risultato per farvi capire come Dai, è andata. Dai, non è solo calcio. Esatto. Quindi abbiamo anche finalmente il tennis. 6-7, 6-3, 2-6, 6-4, 6-2. C'è una maratona infinita. Sì, Andrea Seppi raggiunge gli ottavi. Un po' come questa notizia. Sì. Che voglio dire, un po' una maratona anche lunghissima. Anche questa. Ma lì giocano di notte, mi viene già sonno a pensare. Ecco, vabbè. Comunque, ti ringraziamo Luca Cancellara per questa Volevo dire che anche Djokovic è il numero uno al mondo e del tabellone. Ha battuto poco tempo fa lo svizzero Wawrinka. Chi? No, Wawrinka. È svizzero. Wawrinka è svizzero. Svizzero Wawrinka. Al quinto set, tie break, 12-10. Un'altra maratona, pazzesco. Senti, guarda, sai una cosa? Mi ha fatto venire voglia di ascoltare Allegri. No, cioè, no, Allegri no. No, no, Allegri cioè, no. Non so se favore. È una minaccia. No, no, no, no, cioè, no. Scusa, fai sentire. Sono Allegri e Conte per quanto riguarda la squadra di vertice, indubbiamente, dati i risultati, prospettive sì. diverse, ma comunque, no? Assolutamente sì. giornate. Dobbiamo lasciarla andare. Sì, cioè. Allegri, arrivederci. Cioè, sì, lasciata libero, cioè, toglietegli le catene, l'avete tenuto lì un quarto d'ora, cioè, poverino. Un quarto d'ora, ma sì, scherzando, no, 20 minuti. 20 minuti che lì, ecco, appunto, non mi sembra il caso di insistere su questo piano. No, intanto, vabbè. Ricordiamo che il campionato di calcio sta andando avanti, cioè in questo momento stanno giocando Atalanta e Cagliari, siamo al 90esimo nel recupero. Ma alla Sampdoria cosa manca? Alla Sampdoria, cioè, che giocatore manca? Vabbè, a parte la squadra, ma che cosa vorresti? Allora, un centrale difensivo? Forte, non guardarmi, forte, parla al microfono. Forte di esperienza. Diciamo in attacco si è messi bene, centrocampo abbondanza, quindi un buon centrale difensivo e un portiere meno nervoso. Ma cosa c'entra? No, perché c'è il carattere è importante. Fagli fare yoga, scusa, al tuo portiere. Scusa, sì, però la maglietta bella invece ce no, l'avete già. No, la maglietta, cioè, la più bella maglietta di calcio. Ma però, del per esempio, al Napoli cosa serve? Alla Lazio cosa serve per riuscire in qualche modo a infastidire la Juventus? Che alla serve? Juventus? Alla Juventus servirà qualcosa? Non è che esiste solo il campionato, no, esiste anche la Champions. Se anche la Juventus si rinforza, siamo allo stesso punto di partenza. Ho capito, però c'è la Champions. Invece, adesso a febbraio cambia tutto, mazzo. Cercavo di dare uno stimolo. Che mi hai castrato no. sull'824 0024, e cioè cercare di ditemi a cosa vi manca a voi, cioè il famoso ce lo manca, cioè l'attaccante ce l'ho, ci abbiamo il terzino, ci abbiamo il centrocampista, cosa vi manca a voi ascoltatori, voi della vostra squadra in questo caso? Mancano tutte le squadre, tutte le squadre di Serie A, anche Serie B, sì, perché anche parliamo delle squadre che devono raggiungere la Juventus, ma mancano anche le squadre della salvezza. E qui la Sampdoria, cosa manca alla Sampdoria per salvarsi? Un centrale difensivo, per gli esterni ce li abbiamo, il centrocampo è bello folto, l'attacco figurati, cioè abbiamo Icardi, Maxi Lopez e Der, sì, vabbè, cioè, fantasia. Sì, era una battuta, non volevo la tua risposta, no, non è che mi interessava. No. È finita, Sergio, purtroppo è finita. So che c'eri affezionato. Si va a casa. No, cioè, non la trasmissione. No. Purtroppo so che c'eri affezionato. Avresti voluto che andassi avanti fino a stasera alle 20.45 al posticipo. Invece no. L'arbitro ha fischiato tre volte. Anche Atalanta Cagliari è finita 1-1. Il risultato finale, era passato in vantaggio il Cagliari con l'autorete di Canini e ha pareggiato l'Atalanta con un colpazzo di testa di Stendardo. Guarda, sono travolto da questa tua notizia. Anche Stendardo servirebbe la Juve. Intanto non possiamo andare a casa perché stasera. Sera di nuovo alle 22 saremo di nuovo qua, quindi dobbiamo di nuovo e commentare questa Roma Inter, no, che tanta gioia ci darà sicuramente in tanti questa gol, serata, tanti gol. Nel frattempo vi dico che noi possiamo anche andare via perché arriva il meteo e la pubblicità. Dai e vai, non è solo calcio. Però è incredibile come cosa, vero? 60.000 persone che ti guardano, applaudono, gridano il tuo nome. Fa paura. Tu avevi paura? Sì. Ma quando mai? Paura che potesse finire. Allora, io vorrei parlare di Coppa d'Africa. Fai il risultato? Asamoah gol. Ah. No, così intanto per essere precisi, Asamoah gol, cioè, capito, è entrato. Ghana Congo 2-1, quindi. Grazie a Marco che ce lo segnala. Esatto. Marco? Ah, sì, no, su dove c'è? Non è che ha segnato Marco, dove ce l'ha segnato? Ce lo scrive sulla pagina di Facebook, dai e vai trattino Radio 24. Ecco, tra le varie altre possibilità per comunicare qualche cosa di brillante a questa trasmissione, ci abbiamo anche gli sms. Sì, al 349, il numero di Radio 24, 349-238-6666. Ecco, di solito gli sconfitti, cioè lui ha vinto o perso? No, ha perso Pioli. Pioli perso, stava malamente ha perso. Malamente, diciamo, 2-1 non è una brutta sconfitta. a San Siro, certo che non ha segnato loro. Chiaramente qualcosa non ha funzionato. Sì, certo. Chioli, stiamo ritornando da lei, ma con le immagini della partita per capire bene come andrà. Questo non funziona molto per radio, no? Fare vedere le immagini della partita mentre appunto ci colleghiamo con lui. Questo non regge tantissimo da questo punto di vista. Vabbè, insomma, sono cose che succedono. Stavamo parlando di Ghana Congo e la Coppa d'Africa 2-2. Sì, calcio stiamo parlando. Sì, stiamo parlando di calcio, Coppa d'Africa che è iniziata ieri e oggi appunto in questo momento siamo al 75esimo di Ghana Congo. Aveva segnato prima il Ghana 2-0 con Agyemang e Asamoah e poi il Congo. Ghana che gioca con che? 4-4-2. Il tipico 4-4-2 del Ghana, diciamo. Leggendario 4-4-2. Sì. Mentre ieri colpaccio dell'esordiente Capoverde che ha stoppato sullo 0-0 i padroni di casa del grande, Sudafrica. Grande Capoverde. Se vi può interessare, nell'altra partita del girone A, Angola e Marocco, sempre 0-0. Ricordiamo che il Capoverde ha quanti? 400? No, 280.000 abitanti. 280.000. Ah, sono diminuiti? No, mi sembra che fossero... quando si sono spostati in Sudafrica per fare... Ah, certo. Coppa d'Africa. Hanno già dimezzato gli abitanti di Capoverde, in questo passaggio. Vabbè, sono cose che succedono. Quindi, in corso Ghana-Congo, questa sera l'imperdibile Mali-Niger. Vabbè, adesso non vorrei esagerare adesso per seguire anche tutto quanto stasera, magari seguiremo ancora Roma-Inter per certi versi, ecco. Il posticipo di questa sera, Stramaccioni che torna a casa, ricordiamo, vecchio cuore giallo-rosso torna Stramaccioni, vecchio cuore giallo-rosso. Sì, l'hai detto, l'abbiamo capito, non è che dobbiamo ripetere, sottolineare. Torna a casa. Cioè, volevi far vedere che eri sulla notizia. No. Stramaccioni torna a casa, vecchio cuore giallo-rosso, Stramaccioni contro Zeman, vecchio cuore nerazzurro invece, quindi ecco. È un po' un incrocio di tifoserie. Ecco, ma tu l'hai detto, scusa, gli sms? Sì, l'ho detto, 349-238-6666, questo è il numero degli sms per mettersi in contatto con Dai e Vai tutto il pomeriggio, fino alle 19 siamo in onda, seguiremo un po' il post partita, poi tante altre cose qua, e poi stasera, grande Roma-Inter. Ecco, pensa che hanno scelto, vabbè, è vero anche che stiamo parlando di una situazione un po' particolare, però ecco, hanno detto, ma la musica che mettete, quella di vostra sorella, non avevano quei bassi in quel tempo, ecco. Però nel frattempo, cosa c'è da ridere? No, è sui bassi della sorella, quindi... No, torniamo un attimo invece alle cose serie, torniamo invece al fatto che questa sera ci sarà questa Roma-Inter, molti si stanno spostando, molti stanno già andando lì in quel luogo, tutti quanti. I tifosi. Scusa, tifosi che hanno anche i biglietti, tra le altre cose. Hai detto tutti quanti non a caso? No, ho detto tutti quanti. Ho detto totti? Hai detto tutti quanti? No, ho detto tutti quanti. Purtroppo il raffreddore ha influito su di me. Dove stanno andando tutti quanti? Tutti quanti stanno andando direttamente lì all'Olimpico a seguire la partita di questa sera Roma-Inter. Tra cui chi? Il Roma Club di Firenze. Roma Club di Firenze. Che va a seguire che cosa? Roma-Inter. Roma, esatto. E allora andiamo a seguire tutto quanto. Dove siete collocati? Pruzzo? Pruzzo presente. Ciao Pruzzo, dove siete collocati in questo momento? Oh, siamo a Castel Giubileo. Vabbè, dov'è Castel Giubileo? Che è... È qui sulla corda anulare, prima per prendere via Forti Quinto. Insomma, siete lì intorno, insomma, in questo caso. Sì. Ecco, siete partiti a che ora? Siamo partiti col calma, siamo partiti alle 3, già tranquillo per il discorso di traffico e il tempo, e poi c'è il rientro, la domenica di solito c'è il rientro, capito? Sì, vabbè, cominciate ad andare per il momento, poi vediamo per questa sera, cioè che cosa succederà. Quindi, vabbè, quanti siete voi della Roma Club? Allora, noi siamo 4, sono già a Roma, perché sono fatti il weekend, sì. e due siamo in macchina, e poi stasera si va via tutti e sei insieme. Ah beh, sono solo in sei quindi alla fine. Sì, ragazzi, cioè la Firenze, credi? Firenze giallorossa. La Firenze giallorossa è composta da sei persone. Oggi siamo sei, ma ascolta, col Milan eravamo in 14. Botta di vita lì, ascolta. È un'emigrazione. Ascolta, il problema c'è il problema di famiglia, c'è chi c'è bambini va già a scuola. Certo. C'è la crisi. La Roma è una passione e ci vuole soldi e tempo anche. Certo, certo. Appunto, Pruzzo, quant'è che spendiamo per vederci sta Roma-Inter? Allora, noi facciamo la media di 100 euro a partita, in casa e in trasferta, la media. Compreso il biglietto o escluso il biglietto? compreso il biglietto, perché di solito senti, siccome siamo sempre diciamo 4, 5, 6, il viaggio si spende dai 40 ai 50 euro e più il biglietto, secondo, perché ci va in curva spende meno, io va sempre spendo un po' di più. Ho capito. Sì, Pruzzo, cerchiamo di chiarire per i nostri ascoltatori, tu non sei Roberto Pruzzo o Re di Crocefieschi, cioè un soprannome sì, il tuo. Sì, il mio soprannome e ho avuto anche la fortuna di conoscere il mio grande Pruzzo. Ah, davvero? E prima come ti facevi chiamare? Perché non è che è sempre esistito. Prima, no, prima non avevo, diciamo, da bambino mi chiamavano John Fisher Kennedy, quando da bambino nel paese, perché io sono pugliese di nascita. E si sente dall'accento. Poi sono stato a Roma un anno e mezzo per innamorarmi della Roma, ai tempi di Giuliano Faccola. Sì. Poi mi sono trasferito a Firenze nel 71 e da lì la passione è sempre stata grande. E ora, per fortuna, dopo nel 2001 ho conosciuto il Roma Club Firenze. Certo. E dopo da lì tutte le domeniche sono all'Olimpio. Ti è cambiata la vita. È cambiata sì, la vita, perché prima ero solo, siamo come tanti romanisti a Firenze, sono solo e non sanno come fare. Infatti anche domenica e mercoledì che hanno rivisto il nostro striscione a Firenze, sì. E ho avuto oltre le offese dei tifosi fiorentini, ma anche chiamate di tanti tifosi della Roma che non sapevano che esisteva un Roma Club a Firenze. E quindi in questo momento noi vi stiamo dando anche una mano per farvi conoscere, cioè esiste un Roma Club a Firenze, giusto? Sì, ma oltre a quello, non so se credo, tanta gente qui all'Olimpico ci portano in pianto le mani perché noi siamo sempre presenti in casa e in trasferta. Certo, vabbè, c'è anche il 6, non è che copiate molto. Non è che... No, ma erano in 14 domenica. Ah, 14, è vero, 14. Col Milan eravate 14. Pruzzo, ma tu sei a favore o contro Zeman? Perché lì la tifoseria è spaccata. Ciao, no, allora, la tifoseria è spaccata per due cose, sia per Zeman sia per De Rossi. Ah. Io sono favorevole a Zeman perché... Perché? Aspetta, scusate, non spengere il piacere. Allora, io sono in favore di Zeman perché oltretutto si sa che Zeman c'è lo spettacolo. Allora, lo spettacolo vuol dire gol. Certo, preferisco sempre un gol più degli avversari, però ora non è che qualcuno mi picchierà l'annata sciagurata dell'anno scorso che anche quando si vinceva 5-0 ci si annoiava con i trick e trick. E invece si perde adesso ma siamo allegri, via. Sì, perché ascolta, scusami pazienza, io voglio dire, come si fa a criticare un allenatore che a Catania poteva vincere 4-0 e abbiamo perso. A Napoli abbiamo giocato, a Roma contro Cavani. Cavani ha fatto tre reti e la Roma non l'ha fatta. Io la colpa non ho a nessuno, certo, no? E gli dico sempre, io sono amante di questa Roma anche perché abbiamo una squadra molto giovane e io lo ripeto come ho detto ai miei soci e tutti amici, ho sbagliato domanda. Nel frattempo dove siete arrivati? Guida, stai buono. Ora, non sto guidando io, c'ho l'autista oggi. Ecco perché allora parli. Perché di solito c'avevo l'auricolare. Senti. Ora, invece voi dici come andrà stasera, dicelo tranquillamente, vai, dai. Io sono convinto di una cosa, che oggi è una partita che non si vince 3-0 se i giocatori vogliono giocare, perché se i giocatori vogliono giocare, perché io ho visto anche qualcuno per i metodi che non ha Zeman non la provano. Tipo facciamo dei nomi, Pruzzo, non è che possiamo stare qua a lanciare le accuse. Uno è il mitico top player che per me è un giocatore normale, De Rossi. Marchigno è uguale perché lui se finché era umile ed era un grande giocatore. Scusa Pruzzo, una cosa, dato che nella Roma c'è Marquinhos e Marchigno, quale dei due? Marchigno. Quello a centrocampo. Vabbè, ma se tu non stai attento. Quello non va bene. E poi non solo, Burdisso prima di parlare si deve cominciare a giocare. Burdisso deve giocare prima di parlare. Esatto. Ecco, io siccome ho difeso dall'inizio del campionato, ho difeso Taxidis perché è un giocatore della Roma. Sì, vabbè, hai difeso un po' di gente. Tutti, perché sono gente che hanno addosso Pruzzo, la madre della Roma. Grazie. Posso fare un lancio di agenzia? Pruzzo, dure accuse contro la Roma? No, sei un po' eccessivo anche come lancio d'agenzia da questo punto di vista. Comunque, senti Pruzzo, allora noi ti lasciamo andare tranquillamente verso lo stadio e magari mi faccio dire questo, mi domando solamente come mai De Rossi in 4 anni ha svalutato 60 milioni di euro. Va bene, posso dirlo? Bravo, ecco, bella domanda. Adesso ce la rifaremo tra di noi. Va bene, grazie. Ciao, no, è stato bello. Ci sentiamo più tardi. No, volevo chiedere chi manca alla Roma. Aspetta, ma che domanda fai? No, no, non fare queste domande. Ha messo giù, meno male. No. Cioè, no, anche perché sennò diventava veramente una cosa abbastanza faticosa. Intanto vi dico che arrivano delle risposte. A chi? Abruzzo? No. È dura fare le trasferte da Firenze a Roma. Io stavo pensando il guidatore e l'accompagnatore di Pruzzo. Sì, bella voglia, ma quelle 5 ore in macchina. Adesso si ha già accostato, è sceso, se sta andando via. Sai, no, adesso ne approfitta perché siamo lì. Tu arrivi sul Lungarno, no? Sali in macchina con Pruzzo e lui inizia ad accusare De Rossi. Arrivi al casello, lui continua a accusare De Rossi. Arrivi sul grande raccordo anulare e lui continua ad accusare De Rossi. Ma se poi stasera De Rossi non gioca? Ecco, no. Beh, speriamo, non lo so. 349-238-6666 è tutto questo, è tutto il numero. Così. Sì, è tutto il numero, sì, tutto. Ecco. Sì, perché non se l'ho mai detto, adesso lo dico per la prima volta. Lo ripeto, così mi comincia. 349-238-6666. Bruttissimo così, sì, tutto. Mamma mia, che orrore, ma mi vergogno di me stesso. Vabbè. Comunque anche dai e vai, trattino, Radio adesso, 24 su Facebook. Adesso le provo, 349-238-6666. No, 666. 666. Vabbè, dai, adesso chiederemo istruzioni per arrivare in maniera un po' più decente anche a dire quel numero. Nel frattempo, appunto, sulle pagine Face continuano a dirci delle cose terribili per certi versi. Vogliono sapere cose sulla tua musica, ma sono segrete queste. Queste non si dicono. Ecco, cioè, poi non diciamo già quale musica? Noi neghiamo di aver messo musica, assolutamente, no. Da questo punto di vista. Dai e vai. Non è solo calcio. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? Questo qua ci metti in imbarazzo così, Luca. No, cioè, scusa, si sta comodi? Si sta comodi così? Luca, no, adesso ci ha messo in imbarazzo fatta, con Luca. Fatta. Oh, sì, cioè, allora, cancellare. Vedi, c'è scritto anche lì, non è solo calcio. Sì, però va bene, non è solo calcio, però adesso... Cioè, noi non ci siamo preparati su questo tema, te lo diciamo già chiaramente. No, non cercate conferme su di me perché neanch'io. Ecco, tu cioè, cosa voglio parlare? Di quello sport che viene dal nord. Sei tu che hai mescolato, che hai detto, ragazzi, calcio, poi, rugby. Tu hai detto, ragazzi, con questo spacchiamo, sì, no? Cioè, con questo spacchiamo. Non direttamente so dall'Irlanda. Ecco. Parliamo di calcio gaelico. Ecco. Cosa? Calcio gaelico. Di cosa? Quel mix tra calcio, rugby, un po' basket, puoi prenderla... Come basket? Sì, puoi prenderla con le mani. Vabbè, ragazzi, con le... scusate, facciamola parlare direttamente a Raffaele. Ah. Parliamone con lui direttamente. Raffaele Franco, pronto? Sì, pronto. Come va? Tutto bene? Bene, grazie, ciao a tutti. Allora, responsabile di che cosa in questo caso? Rovigo Gaelic Football, qualcosa del genere, giusto? Ho detto bene? Hai detto benissimo, la prima squadra in Italia di calcio gaelico. Oh, grande Raffaele, queste sono soddisfazioni tu che sai, solo tu ci puoi dare. Tu sai che adesso in questo momento l'Italia intera, il paese, diciamo, se ne sentiva un po' il bisogno. Vabbè, immagino lui un po' meno. Ha avuto un momento di scoramento anche lui. Ecco, certo. Allora, adesso a questo punto, però, Raffaele, dobbiamo raccontare che cos'è il calcio gaelico. Perché, diciamolo chiaramente, noi siamo particolarmente ignoranti su questo tema, ma so che tu ci potrai illuminare di immenso. Allora, dicasi calcio gaelico che cosa? Allora, dicesi calcio gaelico, un'attività sportiva tradizionale dell'Irlanda. Tenete presente che questo sport in Irlanda attira stadi tipo San Siro pieni. Sì, bravo, certo, bravo Raffaele, diglielo. Praticamente si gioca su un campo rettangolare con delle porte che ricordano un po' quelle anche da rugby, perché hanno i pali, però sotto c'è un portiere con una rete. Se tu riesci a fare gol nella rete dove c'è il portiere, fai 3 punti. Sempre la traversa in mezzo ai pali, un punto. È ammesso giocare con le mani, sì. Ci sono delle azioni anche tipo basket, perché è ammesso rimbalzare il pallone, sì. Il passaggio si può fare di piede oppure di mano con un tocco, con un pugno, il Peter Bagger della pallavolo. Qui c'è un mistone. Scusa, ma scusa, Raffaele. Raffaele, ma c'è un mischione. Cioè, allora abbiamo detto un po' di rugby e un po' di calcio, sì, per la rete. Basket. Poi c'è il basket perché si può far palleggiare, si tira, si passa avanti con il piede, però si gioca alla mano come nel rugby, giusto? Ho capito bene? No, diciamo che il passaggio non è come il rugby o come il basket. Il passaggio con le mani è con un colpo di pugno. Ah, come devi dare un pugno? È una cosa molto particolare. Devi dare un pugno al pallone. Il pallone è rotondo come il pallone da calcio, non è come il pallone da rugby. Allora, rotondo come il da calcio, anche per palleggiare. È pesante, infatti il colpo di testa è molto difficile andarlo a fare. Ma cos'è, la palla medica delle scuole medie? Leggermente più leggera, diciamo. Ah, ecco. Raffaele, sorge spontanea una domanda a questo punto. Perché? Perché abbiamo inventato questa cosa? Beh, l'avete inventata voi? Lo chiedono in tanti. Però, diciamo, un po' nata da una passione mia e anche degli amici. Dopo un viaggio in Irlanda, in particolare il mio viaggio di nozze, dove ho acquistato uno di questi palloni e dopo quegli amici abbiamo voluto provare questa... Cioè, tu nel tuo viaggio di nozze hai giocato il calcio gaelico? No, dopo quando sono tornato. Ah, no, ecco, per il viaggio di nozze sei andato a vedere, hai portato la tua... Hai portato la tua sposa a vedere il calcio gaelico, questo è il concetto. Esatto. E quindi abbiamo provato questa attività che ha riscontrato un buon successo, tanto sì, che adesso sulla nostra scia ci sono altre squadre a Padova, Roma, Milano, sta nascendo in questi giorni. E quando facciamo il campionato? Beh, il campionato diciamo un po' prematuro. Intanto per quest'anno noi siamo affiliati alla GA Europe, che sarebbe l'ente che sovrintende alle attività degli sport gaelici in Irlanda e in Europa, e quest'anno debutteremo in un campionato italo-svizzero. Italo-svizzero, perché Svizzera il calcio gaelico va che è una meraviglia, ovviamente. Milioni di persone in Svizzera giocano a calcio gaelico. Non fare delle facili ironie. Non è facile ironia, è constatazione oggettiva di un dato, vero? Mi scuso, Raffaele, guarda che è lui che è un po' così cialtrone in questo atteggiamento qua. È un po' che fa lo snobba un po' questo grande sport. Scusa, Sergio, allora la Svizzera è il paese dell'Emmental, del cioccolato e del calcio gaelico. Non sopporto questo, dai, veramente. Sono queste cose. No, ecco, quindi. Esatto. Ci sono anche le banche, tra l'altro. È vero, le banche. Scusa. No, allora no, torniamo un po' a noi, però, su questo. Voi fate allora questo torneo italo-svizzero, no? Giusto? Ho capito bene? Sì. Ecco. Certo. Italo-svizzero, praticamente ci saranno le 3-4 squadre italiane, se riesce a formarsi anche Milano nel frattempo. Mm. Contro squadre svizzere, sono 3-4 anche là. E diciamo che l'obiettivo per tutti è arrivare a metà ottobre, l'11 e il 12 precisamente, alle finali che si giocheranno in Irlanda a Atlo, finali paneuropee, quindi parteciperanno anche squadre svedesi, olandesi, Belgia e più di una. Perché il calcio gaelico ormai si sta espandendo in tutto il mondo, diciamocelo un po', Beh, diciamo che ci sono diverse squadre, principalmente, ecco, la nostra caratteristica è che la nostra squadra, anche quella di Padova, è formata da italiani e non ci sono irlandesi. La maggioranza delle altre squadre invece sono formate appunto da comunità di irlandesi che lavorano in Svezia, in Norvegia, quelle parti lì. E quindi ci sarebbe questa finale europea, ma è una finale per club, perché non abbiamo ancora il campionato, immagino non avremo neanche la nazionale. Esatto, praticamente no. Adesso a dire il vero, con gli altri amici di Padova stiamo vedendo anche di formare, diciamo, una sorta di federazione per il futuro, e quindi magari potremmo avere anche una nazionale, perché no? Senta, l'infortunio più classico del calcio gaelico? Che domanda è? Ma perché devo portare... Scusa, ma stai portando l'infortunio più classico, così? Ah, l'infortunio più classico del calcio gaelico? Quello più classico è alle dita. Alle dita, perché il pallone è veramente pesante, se lo prendi male. Ma ti insacchi le dita. Devi dare di pugno, scusa, tutti i passaggi sono tutti di pugno. Grazie intanto. Noi ti ringraziamo e probabilmente a ottobre noi saremo lì a seguire la finale, siamo tra le altre cose. Lo spero davvero, anche perché insomma ci sarà da divertirsi. Faremo la squadra di dai e vai di calcio gaelico. Grazie comunque per l'attenzione. Vi sfidiamo. scriviamo. Beh, un attimo. Raffaele Franco, presidente del Rovigo Club Calcio Gaelico. Buttalo via. No, lo tengo. È stato bello, comunque. No, vabbè, sono cose che succedono. Nel frattempo, stanno passando quasi tutti, ma non siamo riusciti a seguire bene che cosa c'era dal punto di vista della rissa che è accaduta oggi, no? Dove? No, a Siena, in Siena Sampdoria, pochi minuti dalla fine, anzi, credo che fosse già nel recupero, c'è stata una vera e propria rissa con giocatore in campo, panchina in campo. Poi sei capito perché? Perché mentre la Sampdoria stava attaccando, c'era una palla a centrocampo, gli ultimi attacchi 10, prima della fine della partita, hanno buttato 8, un pallone in campo dalla panchina del 7. Siena. No, sì, un pallone, no. Sì, hanno buttato proprio. Si è visto il pallone, che, quindi è successo il finimondo. Offesa, ce lo potevi dire anche prima. L'ho visto. Mamma adesso, mia, l'ho questa visto cosa adesso. Qua è scandalosa. Va bene, noi vi ringraziamo. Ci sentiamo dopo il GR. Grazie, a risentirci. Dai, vai, Radio 24. Dai e vai, non è solo calcio. Non hai neanche preso i biglietti. Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. What's this? Finalmente tocchiamo l'argomento che mi è molto chiaro di questa settimana. Bisogna toccarlo finalmente e cerchiamo anche di avere qualcuno che ci possa aiutare ad affrontarlo questo argomento, perché come ho detto il titolo è un piccolo passo per l'umanità, un grande passo per il ciclismo. Esatto, era così. Ecco, era proprio fuori così. Onda però era anche un inutile passo per il ciclismo. E quella era la variazione sul tema. Questa è la variazione sul tema e stiamo parlando ovviamente di Armstrong, che ha fatto tutte quelle dichiarazioni. Ormai lo sapete già tutti, avrete già avuto modo di leggere tutto quello che c'era da leggere su questo argomento, avete avuto modo di commentare con i vostri amici, avete avuto modo di fare qualsiasi altro tipo di cose di questo genere. Bene, noi adesso però cerchiamo di capire un aspetto che è quello, cioè quelli che in qualche modo frequentavano ed erano lì presenti al tour, come reagivano, come si muovevano. La domanda sorge spontanea ovviamente, ma non si sono mai accorti di nulla, non hanno mai dubitato, non soprattutto mai, perché non hanno mai dubitato? Allora questo, noi ne parliamo con una persona di chiara fama, come si direbbe in giro, no? E quindi, una grande penna, la Fiamma Rossa, storie e strade dei miei tour è un suo libro, e stiamo parlando di Gianni Mura. Pronto? Sì, sono qua, buonasera. Come va? Tutto bene? Bene. Bene, ecco. Allora, rispondo subito? Ma sì, dai. Mi sembra che ci vuoi liquidare, no? No! Dici tutto. No, è che la domanda ben posta non è nuova, e la risposta implicita è che o eravamo fessi o eravamo complici. Ovvio. Certo. No, invece qualcuno ha avuto dei dubbi. Tutti, se fai ciclismo non puoi non avere dubbi, basta che uno vinca e ti vengono dei dubbi. Questo se c'è un minimo di pratica, perché insomma è da prima di Armstrong che i vincitori del Tour prima o poi li beccano, voglio dire, da Rees a Landis. Insomma, prima o poi li beccano. Sì, prima o poi li beccano, cioè ci sono soluzioni. Più migliorano le tecniche di analisi e più li beccano, chiaramente. Quindi in questo caso, siccome il garantismo non è una gomma da masticare, chi segue il tour o le corse si attende qualche cosa dalle analisi, cioè con queste nuove droghe, lo spiego più facilmente, mentre prima in regime di doping fatto di simpamine eccetera, chi seguiva le corse aveva un'idea del corridore fatto perché arrivava con le pupille molto dilatate, ecco, usando l'EPO, l'ormone della crescita eccetera, non gli si dilata niente, non te ne accorgi. Cioè non ci sono manifestazioni fisiche del doping? Non ci sono manifestazioni fisiche se non quella che ti fa andare più forte. Beh, però anche quando poi Armstrong diceva dai stasera tutti a bere, magari c'era un sospetto in quel momento. Bisogna vedere cosa bevevano, però dopo aver corso tutto il giorno. Ufficialmente la grande bisboccia della squadra era bere birra e champagne solo a Parigi. Però di fatto quello che ti impedisce di scrivere questo non è mai andato così forte, chissà cosa c'è sotto, oppure questo è drogato, è che i controlli erano tutti negativi. Certo. Ecco, e che comunque adesso è stato incastrato, se vogliamo essere precisi, sulla base di testimonianze di suoi ex gregari, massaggiatori, infermiere, ma non ha avuto una positività a un esame. Allora, quando sei in una corsa di questo tipo, qualunque corsa a tappe, tu sai perfettamente che puoi suonare i violini che per uno che dopo tre giorni risulta positivo, quindi diventa dal super campione l'ultima escrescenza umana della Terra, e tu sei legato alla sua sorte. Ecco, sì, Armstrong però nell'intervista che ha rilasciato ha detto che praticamente c'erano soltanto cinque che lui ha definito eroi che non si dopavano in quei tour. Sì, ma non ha fatto né i nomi di questi, esatto, anche perché ha fatto un numero a caso ed è piuttosto basso, direi. Direi forse 40. Che più o meno era che percentuale? 25, 30, 40, 50%? No, vuol dire un quarto, sì, 25. 25%. Direi, 25, 30. Che erano quelli che andavano a prendere le borracce alle ammiraglie e le portavano probabilmente in... Probabilmente sì, ma poi anche a quelli veniva richiesto di, non so, in una cronosquadra di andare a 55-60 all'ora. Quindi anche su quello... andiamoci piano, cioè tu puoi programmare un corridore per vincere, uno solo per andare forte. Se lo programmi ed è un gregario troppo per andare forte, diventa sospetto. Senti, nel caso di Armstrong le perplessità esistevano fin dal primo anno, ossia per la prima volta lo sport o il ciclismo, che è uno dei più duri, si trovava di fronte a un conclamato ex malato di cancro con tutta la documentazione del caso messa su internet. Sì. Si trovava di fronte a un ex malato di cancro che guarisce, e fin qui non è l'unico certamente, per fortuna, si mette in testa di vincere il tour e lo vince, non una volta ma due, sette tre, volte, quattro, sì. Appunto, esatto. E questo ti dà subito dei sospetti, perché tanto più rientrando l'EPO tra le cure che si fanno ai malati di cancro, e quindi il sospetto era che continuasse a prenderne, ma lui smentiva e le analisi non dicevano. Oppure, tesi più circolante anche tra gli altri corridori, che prendesse qualche cosa di sperimentale. Cosa innovativa che ovviamente non una poteva... cosa innovativa che magari avevano creato in qualche laboratorio dell'Ohio o del Kansas e che non era ancora rintracciabile dalle analisi. Quindi una certa affidabilità di queste analisi, poi arriviamo alla serietà che è diversa. L'EPO si può rintracciare la data, diciamo, fondamentale è quella delle Olimpiadi di Sydney nel 2000, da allora nelle analisi si può rintracciare l'EPO, prima no, tant'è vero che era stato inventato questo, chiamiamolo pietoso trucchetto dell'ematocrito, cioè io non ho la prova che tu prenda EPO, però se il tuo sangue ha un ematocrito, cioè una densità che supera i 50, io per il tuo bene ti fermo per motivi di salute, chiaramente non ti squalifico perché non posso dimostrarlo. E questo era successo a Pantani e a Campiglio nel 99, il sangue è denso. Certo. Dal 2000 i controlli erano fatti bene, si presume, e quindi l'Epo doveva ti dobbiamo interrompere, resta lì però con noi perché adesso dobbiamo andare però il traffico, ma arriviamo subito, perdonaci. Dai e vai, non è solo calcio. Bene, torniamo a noi, torniamo ovviamente a Gianni Mura. Pronto Gianni, ci sei? Pronto? Eccomi. Ecco, perdonaci. Però sai, nevica. Nevica, tra le altre cose, è giusto dirlo in questo caso. Il campanile della chiesa è bianco. Esatto. Noi stavamo appunto seguendo attentamente quello che ci stavi dicendo. No, adesso arriviamo a un nodo interessante sì. Per voi profani. Ah. No, dicevi che dicevo che dal 2000 l'Epo si trova e comunque non l'hanno mai trovata, anche con controlli a sorpresa, e in quelli ufficiali e in quelli a sorpresa. Quindi era persino una cosa ancora più sofisticata? No, quindi era avvisato da qualcuno e faceva in tempo a taroccarli. Ah. Oh. Siccome basta una mezz'oretta, cioè un'endovena di acqua pura per riportare il sangue e cancellare l'Epo, diciamo cancellare le tracce, era avvisato evidentemente. Sì. Quindi tu dici c'erano anche altri? No, che... c'erano delle complicità in altissimo loco, perché altrimenti questa struttura, diciamo, di doping di squadra che è emersa dalle confessioni, cioè lui, Gregari, eccetera, non poteva durare tutto questo tempo. Beh, quindi pratica anche all'interno della Federazione Internazionale del Ciclismo, l'UCI? Secondo me sì. Ed è una delle cose che appunto si sospetta in questi giorni. È una delle cose che si sospettano, ma lui naturalmente di sé dice tutto, ma non fa un nome, voglio dire, di chi l'ha aiutato. Ma se non l'avessero aiutato, ma non c'è neanche un genio del male, poteva farcela per 6, 7, 8 anni a tenere in piedi un'organizzazione del genere, sapendo di usare il doping con la testa coperta dall'ombrello. È un pochettino questo specie di vortice che è formato dalla Federazione Internazionale del Ciclismo, gli sponsor, i ciclisti, tutto sommato anche la stampa, perché è interesse della stampa che si parli di atleti di vertice. Se non ci fosse un astro ma fossero tutti dei gregari, ovviamente tutti in Durain per esempio. No, però c'è anche questo aspetto? Boh, sai... Qualcuno che vince alla fine c'è sempre, non è che ci sia bisogno di creare. Allora io ti posso dire che nel calcio non c'è questo probabilmente uso del doping, ma appena uno fa due gol di testa è il nuovo Riva. Certo. Ecco, quindi chi è senza, come si dire, chi è senza peccato scagli la prima colonna. In questo caso, ecco, io volevo chiederti una cosa. Questo punto la stampa, voglio dire, questo vale anche per altre situazioni. Non è, figurati se difendo tutta una categoria sempre più degradata. Ma la stampa non è né la polizia e non è laureata in biomeccanica o in chimica. Sì. Per cui la stampa, oltretutto, e questo lo sapete anche voi profani. Se scrive Armstrong è un porco drogato, si becca una, come dire, una bella condanna. Infatti l'ha detto Gianni Mura in questo caso. Ecco, certo. E voi però non avete smentito, avete riso, un po' come il prefetto dell'Aquila. Esatto, esatto. Dicevo, se uno fa sta cosa ti becchi una querela da $1 milione che forse il tuo editore non gradisce. E Armstrong aveva degli ottimi avvocati, tra l'altro. Ecco, quindi... ok, ecco, quindi che cosa fa? Non voglio dire che tace o è connivente, ma deve comunque stare ai mezzi che ha di informazione. Questo per dire che comunque per iscritto i dubbi su Armstrong risalgono ai primi anni, già nel 2001 sul Sunday Times un ex ciclista che è David Walsh lo accusava di aver usato Epo, quindi nel 2003 è uscito un libro di due giornalisti intitolato Lance Armstrong LA Confidential in cui si rincarava la dose, cioè non è che adesso dobbiamo portare la croce per quelli che si entusiasmano anche a uno scatto di cipollini. No. Detto questo, per il ciclismo siamo da capo a 12 perché non so neanche se è un piccolo passo per il ciclismo. Il ciclismo un inutile, ho detto anche inutile passo. Quando tu pensi, ma fa parlare. Quando tu pensi di essere alla fine del tunnel, è solo un piccolo periodo che introduce un altro tunnel. Ecco. Sì, questo è vero. E quindi io la vedo così, cioè finché non si fa piazza pulita di tutti quelli dell'ambiente, non solo di Armstrong, che ormai era fuori, cancellargli le vittorie, va bene, tutto quello che vuoi. Però finché non si fa questa pulizia completa, e in alto le connivenze sono molto più difficili ovviamente da riscontrare, anche se poi tra gli organismi antidoping c'è una grande ostilità, se non antipatia, cioè i primi a sospettare dell'Unione Ciclistica Internazionale sono quelli della WADA. Sì, che è un organismo esterno rispetto alla federazione. È un organismo esterno, diciamo indipendente, e che è quello che ha portato poi avanti il l'operazione Armstrong, sì, fino alla confessione. Certo. Posso farti due domande, anche per andare a chiudere, così ti lasciamo libero a seguire poi dopo eventualmente la partita. La prima domanda è molto complessa, più che altro, perché volevo capire da te, una persona che ha un rapporto con il tour da tantissimi anni, tanto che ha scritto un libro bellissimo dedicato proprio alle storie di strade dei miei tour, e quindi quando a un certo punto lui ha confessato, volevo capire la tua emozione, cioè che cosa, tanto sapevi già tutto, sapevi o avevi sospettato o comunque... Ma guarda, in tutta sincerità io ho cominciato a pensare i sospetti sempre su chiunque, sempre, ormai questo poi è il dubbio, 10 anni dubbio, almeno l'adult méthodique di cui si studiava al liceo, ecco. Io ho cominciato a pensare che Armstrong era capace di tutto il pomeriggio in cui è andato a rincorrere Simeoni. Era il tour del 2004 ed era veramente un'azione antisportiva, ma di più volgare, mafiosa, e quindi ho pensato questo qui è capace di tutto, secondo me, e quindi anche sentimentalmente già mi si era allontanato. Per il resto, e con tutto quello che di negativo si può dire di lui, resta comunque un caso singolare. Perché mentre fino a, diciamo, un mese fa era l'unico sportivo guarito dal cancro ad avere vinto un tour, 2, 3, 4, 5, 6, adesso è l'unico ad averne vinti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi glieli hanno tolti. Però di fatto, cioè secondo me per quello che riguardava il messaggio ai malati o l'eventuale speranza che davano le imprese di... non è che cambi poi molto, no, è per gli appassionati, caso. Cioè io penso che ci restino peggio gli innamorati di ciclismo su questo. Beh, ma ormai dovrebbero essere abituati. Dovrebbero essere abituati, ma è una passione, posso testimoniare, molto tenace. Sì, basta vedere quello che succede nelle tappe di montagna, c'è sempre, ecco, nonostante il più pulito abbia la rogna o cose del genere, quindi si spostano città intere, e quindi io è da 30 anni che sento dire che il ciclismo è finito, poi vedo che va avanti con sempre più problemi di credibilità, è anche giusto. Va bene. Però ha delle radici popolari molto profonde. Finché ci sarà una bocciofila, ci sarà qualcuno che va a vedere, quindi tenete conto. Cioè il ciclismo, le nuove tecnologie sono nemiche del ciclismo. A prescindere. Sì. Sì. C'è da dire che le grandi tecnologie del ciclismo sono difficilmente applicabili, ci sono sport in cui le tecnologie sono molto più... Le tecnologie più che altro nel ciclismo servono le tecnologie per quanto riguarda la chimica, non quelle, esatto, di trasmissione. Non la meccanica, non la meccanica. Non la meccanica. Esatto, ti ringraziamo moltissimo intanto, grazie Gianni Mura, a presto. Ecco qua. Ha messo giù il telefono, anche mettere giù più delicatamente. se si arrabbia, vabbè, così, cioè, voglio dire, cioè, adesso poi ce la prende con noi. Cioè. Anche tu gli hai chiesto di Armstrong, capisci, cioè, che è una delusione. Ma che domande sono? Oggi poi. Ma cosa devo chiedergli di Ivan Basso, ad esempio, non lo so. Di Gigi Riva devo chiedergli, scusa. Però lui ha provato a introdurre l'argomento Gigi Riva. Tu non hai colto l'aspetto di chi segna due gol diventa Gigi Riva, e tu non hai colto, lui si è arrabbiato. No, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Era ovviamente ovviamente Gianni Mura. E tra poco, tra qualche secondo, arriverà la pubblicità. Noi ritorneremo, ovviamente. Quindi dai, vai, seconda parte. Poi stasera c'è ancora un'altra. A risentirci. Dai e vai, non è solo calcio. In internet, direttamente sulla pagina Face, si può collegarsi, si possono fare le domande. Poi potete andare direttamente invece sul nostro, per spedirci gli sms al numero 349-238-6666. Va bene così? Sì, va bene, insomma, 349-238-6666. A proposito di Armstrong, è intervenuto un esperto. Oltre a Gianni Mura che abbiamo sentito prima. Sì, volevo dare il numero di telefono. Ah, prego. Posso? No, se non ti do fastidio. No, no, prego, prego. Scusa, No, cioè, prego. Dire, dov'è il numero? Ah, eccolo qua. 824-0024, quello lo sapevo. Le dico perché devo dare il numero, perché ce n'hanno uno in linea. Ciao Marco, giusto? Buonasera, sì, giusto, Marco. Ciao, ciao, ciao Marco. Marco, dici. Niente, io volevo soltanto dire che prima mi sono emozionato nel sentire le parole di Gianni Mura, perché credo che in questi giorni sia stato un pochino l'unico che è andato controcorrente su questa faccenda qua di Armstrong. Ossia, non sono rimasto impietosito dalla figura di questo ex campione che praticamente adesso è arrivato veramente in fondo ad un tunnel, a una parentesi dolorosa per sé, ma credo soprattutto per il ciclismo di tutto il mondo. Tutti noi comunque, nel bene e nel male, in questi anni abbiamo sempre avuto il dubbio che con la storia della malattia, complice un po' il fatto che comunque era questo ciclista americano, quindi si voleva far diffondere il ciclismo anche negli States, ecco, si è stato un po' aiutato, un po' coperto, un po', e tant'è che lui poi anche negli ultimi tempi aveva anche quel fare un po' così beffardo. Beh, no? Sette tour molto coperto, un po' coperto. Sì, no, molto coperto. Sì, però cosa cambia rispetto a un'altra situazione che ha sconvolto un po' i tifosi di ciclismo, tipo quella di Ricco? Cioè, qual è la differenza? Sono sempre, diciamo, da un certo punto di vista le stesse parole che si dicono, cioè ormai siamo arrivati al top, ormai si cambia, si gira pagina, sarà un altro ciclismo, no? Ma lì il discorso secondo me cambia soprattutto se per dire, ci sono le cose riguardano corridori che adesso non voglio offendere, però diciamo di quella parte appena sotto i grandi campioni, no? Nel senso che se vanno a volte dicono, non so, è stato squalificato il tale perché trovato positivo al doping, sì, fanno un trafiletto, perché dello sport a pagina 156 e via. Invece questa cosa qua di Armstrong è stata una cosa grossa, 125 milioni di dollari per questa intervista, ed effettivamente c'era anche da parte della stampa italiana, ad esempio, un tono un po' così, no, mesto anche, quasi di comprensione. Perché non potevano permettersi l'intervista, questo è il problema. Anche, probabilmente è stato anche grazie quello. Mille Marco. Prego? Grazie mille. Ah, grazie a voi, scusate. Ciao, ciao Marco. Ciao. No, stavo dicendo che c'è un esperto che è intervenuto. È stato Luca Gattuso che ti ha liquidato così, certo. Marco. Non voglio no, perché c'è un esperto che ti stavo dicendo, tale Ben Johnson. Ricordi Ben Johnson? Beh, certo, che mastica lui esatto, di queste cose. Esatto. E dico, quando mastica lui. Che è stato raggiunto dalla BBC e praticamente ha detto, non è un problema, gli Stati Uniti e gli americani dimenticheranno Lance Armstrong, dimenticheranno quello che ha combinato, e quindi fra qualche qualche anno lui potrà tutto sommato ritornare, non nel ciclismo, però ritornare come personaggio, perché il problema in questo momento per lui è anche soltanto presentarsi pubblicamente. 100 metri tra l'altro. Io gli farò da allenatore, ha detto Ben Johnson. Sì, sì, so come arrivare primo, insomma, in questo passaggio qua, in questo elemento. Tra l'altro Filippo ci ricorda che la Sharapova vola ai quarti di finale dell'Australian Open battendo 6-1-6-0 sì. La belga sì. Flipkens. Grazie. Stiamo parlando di Armstrong, arriva la Sharapova. Chi è Filippo, scusa? Un nostro amico. Cioè, pensavo mi chiedessi che è Maria Sharapova. No, ma quello lo sa, c'è il poster in camera. È un po' più interessante di Filippo. Va bene, allora lasciamo stare, cerchiamo di essere un po' più... un po' più femminili. Esatto. Non so, cioè, Maria Sharapova è femminile già sì, di suo. Beh, hai voglia. Quindi? Perché sai, il calcio non è soltanto maschile, ma è anche femminile. No. E ogni tanto si sì, ha dei moti d'orgoglio. Tu rientri nella prima parte, cioè dai e vai calcio, in questo caso, sì, in questo servizio. Sì. Questa volta sì, soltanto giusto. per lancialo questa. Tu, dai. Allora, dovrebbe essere con noi Sara Gama. Benvenuta, Sara. Buonasera a tutti. Ti stai facendo una pennica? Cioè, sì, si era addormentata. Ti stai addormentando, è la verità. Sara, ci sei? No, ci sono. Calciatrice, Brescia calcio femminile, giusto? Esatto. Ecco, Sara Gama è stata protagonista questa settimana. In realtà tu sei una protagonista un po' nell'ombra, nel senso che sei intervenuta durante l'elezione della Federazione Italiana Gioco Calcio del presidente. Tu hai fatto un intervento molto duro a favore del calcio femminile, ma se ne è parlato poco. Hai fatto questo intervento durante l'Assemblea Nazionale e che cos'è che hai detto? Sì, diciamo che è stato un po' piuttosto tralasciato dagli organi di stampa e io sono intervenuta perché ero lì come una delle quattro delegate per votare per la presidenza e ho colto l'occasione per dire che finora si è parlato non molto ma è stato fatto ancora meno per lo sviluppo del calcio femminile. Noi attualmente in Italia siamo al terzo mondo proprio a livello di sviluppo. Siamo indietro rispetto agli altri paesi che invece stanno massicciamente investendo per insomma portare ai vertici questo il nostro calcio. Ecco, perché ci sono paesi come ad esempio gli Stati Uniti, il Canada, anche la Svezia, la Germania, in cui è uno sport molto diffuso, che ha molto pubblico, molto seguito, mentre qua in Italia siete pressoché dimenticate. Sì, esatto, sì. Però negli altri paesi sono stati presi provvedimenti dall'alto per poter per far crescere questo movimento e mentre qui ancora diciamo che non c'è la volontà di farlo partire. Ecco, cos'è che chiedevi? Cos'è che i soldi per far partire? Cos'è che chiedete ad Abete, al presidente della Federazione Gioco Calcio? Qual è la cosa dal punto di vista proprio concreto, pratico? Ah beh, ce ne sarebbero tante di cose. Beh, diciamo le prime due. Purtroppo non abbiamo lo status di professioniste e quindi chi fa la Serie A è un dilettante che si trova dilettante di status ma che si trova ad affrontare allenamenti ed impegni che sono assolutamente di livello professionistico, quindi voglio dire innanzitutto bisognerebbe partire dal cambio dello status dell'atleta e da lì derivano mille altre cose. Sì. Anche il fatto di parlare di passare sotto le società professioniste maschili, come ha veduto in Inghilterra piuttosto che in Francia, in Germania sono tutte professioniste, non si può fare se lo status è di dilettante, perché le scuole maschili sono aziende, quindi vuol dire dipende dallo status, loro non possono proprio tesserare dilettanti. Senti, volevo chiederti una cosa, tu hai fatto quell'intervento appunto un po' polemico, diciamo, no? In questo caso, no? Dove? Ripeti una... All'Assemblea Nazionale della Federazione Gioco Calcio in occasione dell'elezione del presidente. Ecco, allora a questo punto hai fatto questo intervento polemico, le reazioni che ci sono state? Cioè qualcuno ti ha telefonato, poi dopo ti hanno detto brava? Sì, siamo molte persone presenti all'Assemblea mi hanno subito manifestato insomma il loro appoggio e hanno detto che è stato un bel intervento e detto ciò, però io ne sono contenta, ma ovviamente le parole lasciano il tempo che trovano, nel senso che bisogna concretamente agire. Quindi in realtà vabbè, insomma, ti hanno dato una pacca sulle spalle e ti hanno detto va bene, brava, ma per il momento non si sa ancora nulla, giusto? Esatto. Tu speri qualcosa nel prossimo prossimamente su questi schermi, come si diceva una volta. Certo, la speranza è l'ultima a morire, voglio dire, io ho 23 anni e spero sempre, insomma, di poter cambiare, però dipende dai vertici. Grazie Sara, buona serata. Ah, scusa, volevo chiederti una cosa, Sara. Scusa Sara, un pronostico Roma-Inter. Sì. Nessun pronostico. Non li faccio, no. Non mi piace farli, però... Cioè, la ribelle Sara non fa pronostici. Ma sei superstizioso? No, io faccio sei tifosa della Roma? No, né della Roma né dell'Inter, quindi... Ah beh, allora puoi farlo. Non mi tocca particolarmente, spero solo sia una bella partita. Ma va bene, grazie. Ciao Sara. Grazie a voi. Ciao. L'hai fatta arrabbiare. Non si scompone. Voglio dire, adesso non prendo parte. L'hai fatta arrabbiare. Smettila, non l'ho fatto arrabbiare nessuno, cari ascoltatori. Intanto ricordiamo che questa è Dai Vai 800 24 00 24. Allora diteci voi il vostro pronostico per questa sera, no, visto che ci siete. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, se non avete l'auricolare, magari devi far confusione. Beh, ma magari manda l'SMS, gli viene più comodo. 349 238 6666, 800 24 00 24. Invece dovete telefonare qua in diretta e darci almeno il pronostico, che non mi sembra una cosa terribile da questo punto di vista, no? Cioè, cosa è successo? Abbiamo già Piero? Ciao. Salve. Ciao. Allora, il tuo pronostico? Ah, il pronostico Inter. C'hai anche chi è che segna? No. No, ancora la sfera di cristallo. Vabbè, ma perché tu ci hai telefonato per dirci? Ma volevo parlare di Les Armstrong. Ah. Ho letto in questi giorni alcune interviste della moglie di Greg LeMond, che ha parlato dell'atteggiamento mafioso e di mobbing che Armstrong ha avuto nei suoi confronti quando erano in squadra prima insieme. Credo fosse US Postal, qualcosa del genere, perché non solo quello che è successo con Simeoni, ma questo sembra essere un carattere distintivo di Les Armstrong, che però quando vinceva era sempre osannato, voglio dire, in maniera liturgica dalla maggior parte dei giornalisti. Sì, lui si è difeso sostenendo che ha un carattere forte, che vuole vincere, che effettivamente... Ma forte non vuol dire metterla, quel posto a tutti gli altri, voglio dire... Ti sento così... Elegante nella tua esposizione. Scusa? No, ti sento elegante nella tua esposizione, va bene. No, voglio dire, è anche la qualità un pochettino dei giornalisti, dei telecronisti, che tendono sempre a esaltare sul momento... chi vince, poi non si sa bene come, senza poi andare a guardare i comportamenti, perché di Les Armstrong che si comportasse in una certa maniera fuori dalle gare, con questi comportamenti da mobbing nei confronti di tutti quelli che gli erano attorno, era ben noto. Cioè, quindi tu dici, oltre a essere un dopato, dava anche fastidio, cioè era anche molesto, insomma, è questo che stai cercando di dire. Beh, non è che sto dicendo, se le capitasse di leggere un pochettino di interviste sui giornali americani che sono uscite in questi giorni, lei si renderebbe conto che stanno venendo fuori i comportamenti di Les Armstrong, che non solo sono quelli che noi conosciamo nei confronti di Simeoni e così via, ma anche dei suoi stessi compagni di squadra e di chiunque non fosse strumentale al suo disegno, vorrei dire. Certo. Quindi ripeto, poi tutti ci lamentiamo della qualità dei nostri politici, ma anche la qualità dei giornalisti in Italia non è che si discosta dal valor medio poi di tutta una serie di comportamenti e di cultura un pochettino dell'approssimazione che c'è. Dai e vai, non è solo calcio. E rieccoci, volevo dirti che a Pescara oggi è successo, ci segnalano ovviamente sugli SMS al 349-238-6666, perfetto. A Pescara è successa una cosa scandalosa, una cosa mai vista. Un giocatore ammonito due volte per simulazione e quindi mestamente è stato espulso. Per simulazione. Per simulazione. No, l'hanno espulso veramente. Ah, ok. L'hanno espulso sul serio. Ma qual è lo scandalo? Fammi capire, non ho capito. No, è che tutte e due volte per simulazione, penso, non so. Ah, ok. Simuli più simuli, vai fuori. Cioè, nel senso che non ha fatto nessun fallo, ha fatto soltanto una il fatto che ha recitato male. Esatto. Ah, ecco, cioè, cambia lavoro. D'altra parte, fai soltanto quello di mestiere per venire a fare le prove prima. Questo cognome, voglio dire. Fai le prove. Ciao, Giuseppe, pronto? Pronto, ciao. Ciao. Ciao. Gigi, allora. No, sentito prima già iniziato l'intervento della calciatrice, che non so neanche chi sia, che si lamentava del trattamento del calcio femminile. Io ti assicuro, visto che adesso in Italia il gioco è lamentarsi, allora con il mio contributo, se possibile. Cioè, tu ti lamenti di quale sport abbandonato a se stesso? Calcio. No, calcio a livello dilettantistico, però. Tra parentesi, a banchette che tu conosci molto bene. Banchette di Ivrea, però, sì. Tu giochi a calcio? Canavese, cioè, no, io faccio direttore sportivo nel banchette. E avendo 300 tesserati, vi assicuro che le difficoltà economiche non sono incredibili. E quindi... Sì. Io credo che sentir lamentare anche solo delle calciatrici che fanno, come ha detto la... Però posso dirti una cosa, Giuseppe? Penso che la nostra Sara Gama non è se lamentata, lei ha fatto un intervento all'assemblea della Federazione Gioco Calcio, dicendo: guardate che nessuno sta facendo, noi esistiamo ma non esistiamo, allora decidetevi, se ci fate esistere meglio, se non ci faccio esistere ditecelo, se non volete farci esistere ditecelo, però tutti nel mondo accade che in questo momento tutte le altre federazioni hanno come dire, grandi investimenti dedicate al mondo del calcio femminile. Sì, no, ma siccome quell'intervento loro lo conosco molto bene perché un po' di politica sportiva mi occupa. E c'eri? No, non c'ero. Pronto? No, non c'ero, perché per ovvi motivi non c'ero, però c'era quello a Torino del regionale, quindi parlo con cognizione di causa. Io ti assicuro che i problemi sono tanti ovunque, non solo lì. E quando si parla di calcio maschile non si può equiparare sempre comunque il calcio professionistico al calcio dilettantistico. Su questo siamo d'accordo. Perché qui le nostre società stanno andando a morire tutte. Io vi faccio un esempio pratico, perché poi parlare con i numeri è sempre molto più... Hai 10 secondi però. Sì, allora, prima di mettere in campo una qualsiasi squadra, all'inizio del campionato bisogna tirare fuori 10.000 euro, signori. E per una società con uno sponsor è una cosa incredibile, sforzo titanico. Ma dipende dalla categoria o per tutte le categorie? No, per mettere in campo la società, perché devi pagare per l'iscrizione della prima squadra, che poi a ruota si porta l'iscrizione di tutte le altre di squadre del settore giovanile, ci vogliono 10.000 euro. Va bene. Questo è il problema. Giuseppe, dammi il risultato di questa sera Roma-Inter. Vincere la Roma sicuro. Ciao, grazie. Ciao. Pronto? Adesso andiamo da Raffaele. Pronto, Raffaele? Pronto, buonasera Sergio. Complimenti per la decisione. Senta, volevo chiedere due cose. Io mio pallino fisso. Ma non pensa che il fatto di mettere più arbitri in campo sia una situazione assolutamente fallimentare? Perché oggi ho visto due gol assolutamente falsati, che non convalidare. Più arbitri. Siamo contro gli arbitri in più. Sì, il primo gol di Pazzini, se lei vede bene, c'è un fallo netto sul difensore del Bologna. E poi il gol del Pescara, che è assolutamente il primo gol a Pescara, il primo gol del Torino è in fuorigioco. Raffaele, tu stai dicendo troppi arbitri in campo. Troppa gente. E che non serve nulla. Dici già il paese è in crisi, non è il caso di spendere soldi per gli arbitri, questo che stai dicendo. Grazie Raffaele. Ciao. Il pronostico. Io spero un 3-2 per la Roma, se fosse la Roma. Adesso... spero in una doppietta di Osvaldo. Ecco, infatti, volevo sapere i marcatori, perché 3-2 non è facile. L'ha detto. Allora, diciamo Osvaldo Lamela, e poi diciamo Guarin e non lo so chi gioca dell'Inter. Non importa. Cambiazzo, diciamo. Cambiazzo in panchina. Grazie. Ciao. Grazie. Siamo contro a tutti questi arbitri in campo. Sì. Sei tu che sei in contro. No, lui è contro. Però anche noi come trasmissione dobbiamo prendere la posizione. Qualche cosa anche per questo. Insomma, adesso non ci agitiamo. Diciamo che invece nostra pagina Face continuerà a esistere anche per tutta la settimana e seguendo ovviamente quei e soprattutto stanno già pullulando i pronostici per questa sera. 2-2 sì. Con Totti, Palacio, Rocchi, La Mela. Poi? Luca, che ne pensi tu di questo? 2-2 con Totti, Palacio, Rocchi, La Mela. Ah, perfetto. Scusa, hai fatto la domanda a Luca Gattuso, scusa, cosa ne pensi? No, io giro le ambasciatore. Adesso, cioè. Cosa ne pensa Luca Gattuso? Ma chi non penso niente, quindi, non ho pensieri su Roma-Inter, guarda. C'ho già le mie preoccupazioni. No, nel frattempo c'è una notizia, sta circolando, avete sentito anche nel giornale radio di Radio 24 prima, pare abbastanza confermato che Wesley Snyder questa sera, mentre i suoi compagni di squadra, ormai ex compagni di squadra, sono lì che giocano a Roma, sì. Lui se ne andrà già, Galatasaray, è già là che potrebbe firmare stasera. Sai che noi siamo in onda adesso, sì. Fra un po' smettiamo di essere in onda, mm-hmm. Magari quando torniamo in onda alle 22 a fare dai e vai, Snyder è già un giocatore del Galatasaray. Bravo. Metti l'accento, scusa. Dai e vai, Galatasaray. Ecco, ti ringrazio per questa chiusura, veramente grande chiusura, devo dire. Non ci riprenderemo più, mi sa. È la grande chiusura che dovevamo fare, insomma, in qualche modo. No, l'unica cosa che posso dire è dico che oggi ci hanno seguito al mixer Valeria Bernardi e Roberto Scaltritti. La regia di Dai e Vai è di Sergio Ferrentino. L'assistente al programma Giorgio De Luca. Mentre in redazione c'è Luca Cancellara. Dai e Vai è un programma di e con Luca Gattuso e Sergio Ferrentino. Oh, tra poco cosa c'è? Dai, dillo. C'è l'altro pianeta di Laura Bettini. Laura Bettini con l'altro pianeta. Sai l'altro pianeta? No, non quello lo là, sai. No, non l'altro lo pianeta. Sai. No, quell'altro pianeta là. Quello vabbè, là, adesso smetti, dai, su. Noi torneremo ancora qui direttamente su Radio 24 questa sera alle 22. Direttamente qui con Dai e Vai. Gioco, non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire! Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh?